Marco, ci sei? Attento Marco, ci sei, l'ascolto? Oh, chi c'è qua? Avvettore, dal segnale capisco che sei in barra mobile. Io qua sto cucinando la pasta, dai. Ci sentiamo più tardi. Ciao. La modulazione è sempre buona. Ok, dai, casomai ci sentiamo dopo, dai. Ciao, to, ciao. Attenzione, Tore, ci sei ancora? Tore. Attenzione Gian Maria, Tizio, lo signor Gian Maria, che è te? Io, mi sbaglio, dormite troppo. No, ti ho chiamato verso le 6:30, beh. E c'è sempre qua io, gatta. C'era anche Luca, del monte. C'era Coso, come si chiama, Marco, che ti stava chiamando anche. E poi ho visto che non c'era nessuno, stavo controllando a mio nipote nel campo. Che cosa? Controllano a mio nipote giù a San Giovanni nel campo. Mari. Sì, me lo sentato un attimino, più colpo di tosse. Si chiamare andemmo, E ogni tanto ci vede che... Sì, ho preso anche il colpo d'aria. Troppo vento hai preso. Perfetto. Mi ha beccato, Avanti il K, nel canale 23, ok, buonasera. Salvatore da Sassari, stasera, provincia di Bari. Il nome non l'ho capito, Inco, non ho capito. La propagazione si sta spingendo forte. Il nome è Salvatore. Detto squalo bianco, ok, ti passo anche il mio collega che siamo vicini di stazione. Ok, buonasera, Gian Maria da Sassari, a due passi dall'amicottore. Buonasera, ben sentito, complimenti, arrivi bene. C'è Antico 8 e Radio 5. Hai copiato? Non mi sento. Bene, amico, hai copiato? Non mi senti, ammetto. Se manca a me, deve darsi, sì, ammetto. Ho sentito un paio di parole solo e boh. Attento, l'amico di Bari, sparito Attenzione, l'amico di Bari, da lì va, non da lì va. Si vede che la propagazione è calata. Vabbè. Bacchino, se hai sentito. Ancora no, se no entrava. Ci ha dato meno 10, e quello non entra più ormai. Ormai è già l'ora della pappuzzola. È stata a quest'ora ieri. A quest'ora era, boh, non mi ricordo, no. Vabbè, già siamo qua, siamo entrati fino alle 8, siamo qua. E allora, cosa ha combinato oggi? Cosa vuoi che abbia combinato? Più che altro accompagnare nipoti. Poi sono salito al centro, qualche giretto e poi sono rientrato. Ah, ci sta. Questa volta ti hanno preso per tassista, tu. Stasera sono andato a accompagnare a giocare a pallanamento a mio nipote. Ma mangiava l'ha già accompagnato una, ma già l'ha già accompagnato l'altro. Vabbè, sempre tu li devi accompagnare. E il padre non ci sono. No, il padre non c'era, la madre si sentiva male, quindi tocca da me, si aggira, rimani e si aggira. Quando i genitori non si sentono bene, già un altro discorso, allora va bene. Ma se no è troppo lusso, tutte le volte, o no? Sì, senza l'amico Nico di Brindisi, ti ascolto benissimo, Radio 5. Sei a posto, non so se senti l'amico di qua, Gian Maria, ci ha detto se possiamo passare in banda laterale. No, non posso perché abbiamo solo gli omologati e basta, AM, FM, solo così ce l'abbiamo. FM, Gian Maria, passa in FM un attimino. E adesso mi senti? Adesso sì, poco fanno, Ti sei abbassato il radio, Ferotto. Abbassato mi sono, perché ho messo quell'altro. Adesso che si è... già sta uscendo. Sì, sta uscendo, ma è bassa la radio. Marco, ma come lo senti? Oh, c'è un giabotto in FM che non se ne capisce niente. C'era anche la Germania, ma parla chiedendo controllo. Hai ragione, Vasiani. Andiamo. Marco! Ehi, ehi, sai cos'è? Per fare questi DX, siccome vai via il segnale, no? Come si chiama? USB? Ci vogliono watt, ci vuole un aiutino, una scarpetta ci vuole, capito? Anche 20 watt bastano. Ehi, che tua scarpetta! Quelle che ho sono anche sfondate le mie, le scarpe, o Marco. Non vanno. Chiamo le scarpe nuove, le mie sono sfondate. Le mie non mi dica ne manco che non ha giù mancuna io, le ha giù tutte 40-41. Se mi sento le buone, se no, per Marco io lo sento, ma lui è più in alto di noi. C'ho molti metri di cavo e non posso usare nemmeno più watt perché non c'ho il filtro anti-TY. Se mi tornasse quello potrei anche alzare un po'. Non ti perdi niente, guarda Marco, spesso non ti perdi niente Marco. Vabbè, ma è bello anche comunicare con l'Italia, almeno con l'Italia. Invece alla Germania, in FM gli diciamo che abbiamo fatto un bel affare a entrare in Europa. Che ci hanno zanevuttito. Senti, una volta, a me mi hanno fregato una volta. Sì, ho preso la cosa in B, in Germania mi hanno dato tutta la roba smontata. Anche lì ci sono i disonesti, no? Non è che sono solo onesti. Capito? Ci ha rivoltito con questa Europa, la Germania e non solo. Vabbè dai, io vi saluto che devo far roba al computer, dai. Ma state entrando parecchio tardi, Cioè alla fine 10 minuti poi si chiude. Eia, c'è propagazione, però non è completa, momenti, arriva un momento no. Va bene Marco, dai. Buon continuazione di cena, di pranzo. Saluta a Liu. Ci sentiamo alle prossime, ok Marco? Ehi, ciao, già vi saluterebbe, se fosse qua di passaggio già vi saluta Liu. Ok, dai, ciao a tutti, ciao. Tanto allora il caffè adesso. Sì, ok, ciao Gianmarì, ci sentiamo. Ciao Marco, e buon pranzo. Ok, anzi, buon caffè. D'accordo, dai, ci sentiamo, a domani. Bacchi, sono entrato, sei in ascolto, lo salutiamo, ciao Bacchi, buon proseguimento, ciao. A domani, anch'io chiudo e se ne parlo domani, ciao. Sì, ok, ciao Gianmarì. Bacchi, no, vuol dire che non entra, ok. Ciao Gianmarì. Ciao, Toro.